girano smencia. Ma vai jingle, amore. Girano la smencia. Cupo, sono la smencia. Grazie. Grande, te amo. Bello, bello, bella mappa. Una canzone senza titolo, tanto per cantare. Una canzone senza titolo. Sì, tocca a me. Devo proprio aver bevuto troppe birre dopo il caffè. Beh, c'era la macchina di Step. Bella ma su, quando è che andiamo a bere? Pure subito, voglio sta storto fino a quando vomito. È d'obbligo, se è sabato, sentirsi un po' epatitico. Mi pare il minimo. Gira la testa più che mai, il sacro boccione come sai. Genera dipendenza alcoliche, son guai. Già mai, già, già, si sa che qualcosa non va. Se la vista balla, alzo il volume ma già sta palla. Mi esprimo con vocaboli ipnotici e la testa sotto sopra sotto l'effetto di superalcolici. Rimo e i soldi li ho spesi col vino dai prezzi modici. 12 sono i centesimi che mi rimangono in tasca, credici. Sono in un pub, 4 cocktail e vino buono. Faccio freestyle come nessuno sulla base di Giovanotti, che culo aiuto. Sto in discoteca e mi piacciono gli articolo 31, ma solo quando bevo siamo forti. Accorgi dove ci porti, e tutto il giorno siamo fatti. Fumo, oggi dove ci porti, e tutto il giorno siamo fatti. E mica è vero, il tempo di rollarla è già solo 2 minuti in meno. Mi sdereno, no freno, delirio e vai col nero. Ho preso in pieno, è vero, mi porterà la morte almeno. Non posso farne a meno, gremo in mano lo spino. Mi punge l'odore, aggiunge calore, aggiunge ardore e amore. Per la sostanza che sostanzia fin dall'infanzia ogni mia azione. Non v'è sentenza che sentenzi, ne appiccio poche e mi danno avanzi. Ragazzi, noi pazzi, per la ciuspa tranne piazzi. Stravolti tutti i giorni, dai suoi atti cari prezzi. Due pezzi, da 5 fino alle 7.35. Temo che 5 minuti dopo ci toccherà acquistarne al chilo. Chilometrici, obici, farciti di incenso proibiti. Tu puoi chiamarci, etichettarci falliti, ma non ci sfidi. Sarebbe come sparare alla croce rossa, dalla roccia del fattone. Il mio delirio fine corsa. Forse, un po' di forze, chili di micce sparse. Arse, intenso odore, Ronson da calore. Ti dirò come accorgi dove ci porti, e tutto il giorno siamo fatti. Fumo, oggi dove ci porti. Serata stolta, siamo finiti alle scaliere un'altra volta, tutti imbriachi tranne me. Sento risate insensate, nessuno sa perché. E Gino a far capriole sul parquet. Non c'è nesso logico che duri, vedo Maso intento a scrivere sui muri. Carabinieri, passiamo inosservati, mentre vedo Gino e Copi che sono già scappati. Bastano due bicchieri di troppo, ma guarda sti alcolizzati. Come se non gli bastassi, falliti si sono coalizzati. C'è chi dà fuoco, c'è chi distrugge, c'è chi si mette ad urlare per strada e poi fugge. C'è chi impazzisce, chi impallidisce, c'è chi cantando e fumando dopo due canne s'avvilisce. Che ci vuoi fare quando mischi fa male? Whisky col nero? Whisky? Ne conosciamo i rischi. Accorgi dove ci porti, e tutto il giorno siamo fatti. Fumo, oggi dove ci porti, e tutto il giorno siamo storti. Accorgi dove ci porti, e tutto il giorno siamo fatti. Fumo, oggi dove ci porti. Fumo. comprato CD.